un sospiro o da un temporale. L'ostetrica ti batte, non ti chiede come va. Beh, benvenuto qui fra luce e confusione. Nessuno che t'ha chiesto se volevi uscir di là, là. Ti accuso il bene e ti ha spiegato il male. Si sappia regolare, prima o poi c'è l'aldilà. Guardare e non toccare, guardare ed ingoiare. Sei un po' nervoso ed un motivo ci sarà. Vivo un morto ex, vivo un morto ex. Vivo un morto, vivo un morto, vivo un morto ex. Fa una croce qui, firmati così. Vivo un morto, vivo un morto, vivo. Dentro lo stronzo professore che t'ha rubato tempo con la sua mediocrità e puntano al tuo tempo da alcuni sì signore, perfino un giuramento, un anno di tua proprietà. Vivo un morto ex, vivo un morto ex, vivo un morto, vivo un morto, vivo un morto ex. Siamo sempre qui come cosa chi. Vivo un morto, vivo un morto, vivo un morto ex. Ah, la faccia di chi t'ha visto ex. C'è posto per chi sa stare a posto, il posto tele accese, la casetta in Canada, il sabato la spesa, il giorno dopo in chiesa, e sei un po' nervoso ed un motivo ci sarà. Vivo un morto ex, vivo un morto ex, vivo un morto ex.